Welcome to the Manji Show. Presents Manji Partnership. Good listening. Eccoci qua, bentrovati a tutti da parte di Andrea oppure da parte del Mangia. Siete all'interno del Mangia Show, spazio quotidiano in onda su questa emittente. Spieghiamo ancora un pochino a tutti gli amici e tutte le amiche, magari ai nuovi amici e alle nuove amiche, che cos'è questa trasmissione radiofonica. Il Mangia Show è un contenitore, per l'appunto, dove c'è la possibilità di ascoltare in primis musica, ma anche vi leggeremo alcune notizie curiose e reperite dal web. La musica che sentirete in sottofondo sarà musica Creative Commons, quindi non trasmetteremo delle canzoni tutelate dalla SIAE. Le solite canzoni che ascoltate in giro, insomma, da queste parti non le passiamo, per un motivo o per l'altro, perché ci piace scovare all'interno delle Creative Commons magari dischi che non ascoltate solitamente magari nelle vostre radio oppure nei vostri iPod. Quindi preparatevi, anzi preparate le orecchie, perché tra poco grande musica in primis, con delle notizie reperite dal web. Vi ricordo che la maggior parte delle canzoni sono, diciamo così, reperite dal sito www.yamendo.com oppure direttamente dal web tramite le reti P2P oppure semplicemente tramite forum e siti, per l'appunto, che trattano la musica Creative Commons. Direi di partire immediatamente con la prima canzone, che è del caro amico Graziano Manca, Al Secolo, Dark Light. Ci ascoltiamo una traccia estrapolata dal suo nuovissimo album, reperibile tranquillamente in free download su www.yamendo.com. In vostra compagnia, Il Mangia, ed ora Dark Light. Thank you. stupenda canzone, è, se non erro, la traccia numero uno del nuovo CD di Graziano Manca al secolo, Dark Light. Questa canzone è intitolata Twinkle in My Darkness, spero sia corretto perché è scritto molto molto in piccolo qua nel nostro programma per lo streaming. Se volete maggiori informazioni su questo artista vi rimando al sito www.radiooltrepo.com, cliccate nel link apposito con la scritta Dark Light oppure il viaggio musicale di Dark Light e scoprirete la biografia di questo grande artista piacentino, appassionato principalmente di sonorità dance non commerciali, ma ascolta veramente di tutto, dalla musica Creative Commons che per l'appunto lo ospita su www.yamendo.com alla bella musica d'autore italiana, per intenderci la grande musica di Fabrizio De André. Però lui si muove principalmente nel panorama dance. Abbiamo ascoltato questa bella traccia estrapolata dal suo nuovo album. Ribadiamo ancora una volta che siete all'ascolto del Mangia Show, andrà in diretta e anche in replica su alcune emittenti radiofoniche. Anzi, se voi magari ci state ascoltando in podcast, vi ricordo che potete tranquillamente diffondere tramite onde radio questa trasmissione, perché sia la musica che lo show è tutelato dalle licenze Creative Commons, quindi non vi preoccupate per i diritti d'autore. Se i musicisti hanno scelto insomma le licenze Creative Commons, le abbiamo scelte anche noi per le emissioni, quindi se volete trasmettere lo show fate pure, se volete scriverci magari per dirci in che radio lo trasmettete, ma potete anche insomma usarlo senza segnalarci la vostra radio. Insomma, divertitevi e divertiamoci ascoltando principalmente della bella musica libera che è anche in circolazione sul web liberamente e anche gratuitamente. Andiamo avanti con una nuova canzone, anch'essa nuova, nuovissima, uscita di recente, vede insieme due grandi band, una si chiama Adult Holly e l'altra band si chiama Saregama, spero di aver letto giusto, Saregama, giusto, giustissimo, con After Zone, questo è il loro nuovo singolo, Adult Holly e Saregama, After Zone, adesso parte. Thank you. Recentemente questo bellissimo disco che vede la collaborazione di due band mitiche per quanto concerne il panorama Creative Commons e il panorama del portale www.yamendo.com. Le formazioni si chiamano Adult Only e Sa Regama, che ci hanno regalato questo brano dal titolo After Zone. Vi ricordo che se volete magari approfondire la musica di queste due band, andate su Google, cercate Adult Only Yamendo e come per magia vi verranno fuori le ricerche, insomma, tutte le produzioni di Adult Only. Stesso discorso vale anche per Saregama, basta cercare questo nome, Saregama Yamendo, e anche in questo caso vi vengono fuori nelle ricerche su Google tutte le produzioni di questa band. Insomma, della bella musica che sta girando sempre sulla vostra radio del cuore all'interno di questa trasmissione Mangia Show. Vi ricordo ancora una volta il mio blog, il mio sito, dove è possibile anzitutto leggere i miei post oppure semplicemente entrare in connessione con il sottoscritto e con il programma www.andreamangiarotti.com. siamo entrati nella Quaresima, da poco insomma siamo entrati nella Quaresima, magari molti di voi non sanno che cosa sia, lo ripetiamo leggendo un piccolo passaggio da Wikipedia. La Quaresima è uno dei tempi forti della Chiesa Cattolica e di altre chiese cristiane, celebrato lungo l'anno liturgico. Il periodo che precede la celebrazione della Pasqua e che secondo il rito romano dura 44 giorni, per l'appunto è la Quaresima, partendo dal mercoledì delle ceneri, mentre secondo il rito ambrosiano la Quaresima ne dura invece 40. Tale periodo, caratterizzato dall'invito insistente alla conversione a Dio, sono pratiche tipiche della Quaresima, il digiuno ecclesiastico e anche direi il digiuno insomma personale, se uno volesse svolgere questa cosa, e altre forme di penitenza tipo la preghiera intensa, pratiche di carità e insomma che ci condurranno sino alla celebrazione della Santa Pasqua, il culmine per l'appunto delle festività cristiane. Riguardo i 40 giorni, per le 44 giorni della Quaresima, questo evento ricorda alcune cose accadute per l'appunto, tipo i 40 giorni trascorsi di Gesù nel deserto dopo il suo battesimo nel Giordano e altri eventi insomma che si sono succeduti all'interno dei Vangeli, quindi all'interno della Bibbia. Libera amico mio, così sia, facciamo presto, che in questi tempi di frontiera l'asfalto resta sotto il sole, sulle torri all'ital sider la pianura va a bruciare, quando in nome del consumo c'è anche chi deve morire. Maria che ci consoli per i campi abbandonati, terra e notti di lavoro e neanche fame di memoria, in un buio senza storia. Maria Vergine Maria, apparsa in un supermercato, siamo quindi tutti uguali, o così ci hanno voluto. Calimera amico mio, e a questo popolo venduto, a questi figli senza padri e a questi padri senza scopo, Maria che ci consoli in questa notte artificiale, dalle stanze di tortura della televisione, voglio indietro il mio pudore e dammi indietro ciò che è mio, e tienti il pane quotidiano fatto di mediocrità, che sembra dolce invece amaro, che sembra dolce invece uccide, dove è innocente anche ammazzare, apre i denti mentre ride, e ride perché non sa amare. Maria piena di grazia, dammi indietro le mie mani, per costruire il mio passato che mi servirà domani. Voglio indietro le mie mani, Maria dei santi e degli oppressi, Maria della rivoluzione, brucia come fossi un faro e fa che paghino anche il conto, e fa che il conto sia più amaro, e fa che il conto sia più amaro. More music variety right here on the Listener's Choice. gentilezza abbiamo ascoltato il bellissimo disco dei Rain, Ave Maria, e ora siamo tornati in diretta con questa bella canzone di Re Drum del titolo Deep, D-E-E-P, Deep. Ora parliamo invece di privacy degli utenti internet. Obama delinea la carta dei diritti, un articolo reperito dall'ANSA.it. La privacy va rispettata e tutelata anche online. Il presidente americano Barack Obama si schiera con i navigatori e presenta le linee guida per una carta dei diritti per tutelare, per l'appunto, i dati personali degli utenti che navigano sul web. La maggior novità comunque è il, per l'appunto, il disco verde dei giganti del web a consentire agli utenti di scegliere se voler essere seguiti o meno online. Da anni le società resistono all'adozione delle funzioni no trace che consentono ai navigatori di mantenere l'anonimato, ma ora hanno ceduto consentendo a non usare i dati raccolti per la pubblicità mirata e per offerte di lavoro e assicurazioni. Insomma, già questa è una buona cosa. E poi l'articolo continua spiegando, per l'appunto, i dati potrebbero per essere usati per ricerche di mercato. La rivoluzione sulla privacy riguarda anche il mondo delle cosiddette applicazioni di Google, Microsoft, Apple, eccetera eccetera, che solitamente magari siamo soliti a scaricare o siete soliti a scaricare sul vostro cellulare, ma di solito queste applicazioni magari vi danno magari un servizio, però, come si suol dire, tutto vi dicono gratuito, però come accade in molti casi, come è accaduto anche in passato con il social network Facebook, poi i vostri dati sensibili vengono magari ceduti a società di marketing che sui vostri dati personali, diciamo così, se la godono e hanno degli introiti. Bene, speriamo che anche il presidente americano Barack Obama si schieri veramente dalla parte di noi utenti di internet per avere una certa privacy, almeno quando si naviga sul web. Siete sempre all'ascolto del Mangia Show, in vostra compagnia il vostro amico Andrea o il vostro amico Mangia. Mangia è il mio pseudonimo perché è un, diciamo così, un diminutivo del mio cognome Mangiarotti. C'è anche un sito web se volete magari collaborare con me o semplicemente esprimere considerazioni, www.andreamangiarotti.com, per ogni vostro tipo di richiesta. Salutiamo tutti gli amici che ci scrivono e ci fanno i complimenti, salutiamo anche Marco invece che ci fa un bel po' di critiche, insomma dice che la mia voce non è bellissima, anzi scrive che è molto, diciamo così, logorroica. Vabbè, grazie comunque Marco per avermi scritto. Come si dice in questi casi, nessuno è perfetto. E vabbè. Thank you. Australia, il primo ministro ospita a cena tre coppie omosessuali. Articolo reperito questa volta da Yahoo, anche se devo essere sincero, questo articolo l'avevo letto nel profilo di Franco Grillini, che per l'appunto riportava questa news. Franco Grillini, che adesso non ricordo se è ancora presidente dell'Arcigay, presumo di sì, fa parte dell'IDV, come ben sapete, e da sempre si è battuto per i diritti delle coppie omosessuali, sia lui che altri grandi politici, come non ricordare il grande, insomma, Marco Pannella, che a 80 anni è ancora in prima linea per i diritti civili del nostro popolo. Un salutone a Marco, grande Marco. Vediamo una notizia, ci giunge dall'Australia: il primo ministro australiano Julia Gillard, oppositrice del matrimonio tra persone dello stesso sesso, ospita oggi a cena tre coppie omosessuali nella sua residenza ufficiale. Pensate un po', magari anche Marione Monti ci pensa e fa una roba del genere, una cosa del genere. Scusate, l'evento è stato organizzato grazie al gruppo Get Up, organizzazione di attivisti per i diritti delle comunità gay, che per la cena ha pagato l'anno scorso circa $31,000 all'asta di beneficenza della Press Gallery of Australia. Le coppie hanno riferito che useranno l'evento in programma nella capitale per convincere la Premier a legalizzare il matrimonio gay, ma sarà molto molto dura. Poi l'articolo continua citando uno dei due figli della coppia, per l'appunto lesbica, che ha due figli, e loro dicono che insomma, questi ragazzi qua dicono che non sono normali, quindi non ci riconoscono come una vera famiglia. Insomma, questo ovviamente non loro, sono la critica australiana, soprattutto i partiti d'opposizione, che magari anche fondamentalisti religiosi, che si oppongono a queste unioni di fatto, che poi ovviamente possono essere delle unioni non solo tra persone dello stesso sesso, ma anche semplicemente di persone magari divorziate, come, insomma, mi sembra di ricordare Pier Ferdinando Casini, persone divorziate che vogliono rifarsi una famiglia senza necessariamente convogliare in matrimonio, come si suol dire. E l'articolo si conclude per l'appunto dicendo: il nocciolo delle proposte consistono di mettere sullo stesso piano le coppie di persone dello stesso sesso e quelle eterosessuali, ma nel riconoscere le autorità religiose la libertà di potersi sposare sarà molto molto dura, perché come ben sapete molte confessioni religiose non accettano i matrimoni omosessuali. Insomma, questo è quanto. Siete sempre all'ascolto del Mangia Show, si prosegue con un'altra bella canzone, loro sono gli Zero Project e questo è anch'esso un nuovo singolo. Il titolo del brano è The Dance of the Shadow, Zero Project. We'll be right back. classic hits to the best of today. And I'm a Chris, I'm doing the job. It makes me feel like I'm ruling the world. Never hit around, my God, it's a shame. That's why I would give you the fame. They said the soundtrack, yeah, that's summer. They said the reason I'm my fever. They're the one of my behavior. If this is real what I feel, I'm gonna not play here and sing. The singing the loud one by unheard. But at least you won't feel like you lost it for good. So pick up your brains and burn it together. Get ready to shout, this is only a teaser. So pick up your brains and burn it together. Get ready to shout, this is only a teaser. This is the soundtrack of the summer. This is the reason of my fever. Reveal the one of my behavior. I'm gonna knock it here and sing. This is the soundtrack of the summer. This is the reason of my fever. You're the one of my behavior. This is really what I feel. Questo bellissimo singolo di The League, The Soundtrack of Your Summer, che abbiamo suonato anche la volta scorsa, troppo bello, siete sempre all'ascolto del Mangia Show e ora inauguriamo il cosiddetto spazio I Love Cinecittà. Bene, visto che in precedenza abbiamo parlato di Quaresima, quindi ci stiamo avvicinando alla Santa Pasqua, mi sembra quasi di essere un prete, scusate, cambio un po' voce, no? Visto che in precedenza abbiamo citato la Quaresima e la Santa Pasqua, direi quest'oggi di analizzare una pellicola molto interessante a tema, Il Vangelo secondo Matteo, un'opera cinematografica italiana diretta nel 1964 da Pierpaolo Pasolini. Queste informazioni sono reperite da wikipedia.org, mi sembra, comunque da Wikipedia. La pellicola è incentrata sulla vita di Gesù, come è descritto nel Vangelo secondo Matteo, stavo dicendo secondo Matteo, trattano in maniera antidogmatica un argomento di carattere religioso. L'opera fece sensazione e ha aperto un aspro confronto tra intellettuali sulla stampa e anche ha fatto, diciamo così, notevole scalpore. Come ben sapete, insomma, Pasolini proponeva delle opere un po' particolari e più volte è stato accusato di vilipendio, insomma, aveva subito, insomma, delle varie condanne, piccole condanne, per via di alcune pellicole che all'epoca erano ritenute, insomma, volgari, eccetera eccetera. E quindi quando è uscito questo Vangelo secondo Matteo, posso immaginare lo stupore dei cosiddetti critici dell'epoca, e chissà cosa immaginavano che fosse. Invece è un film molto bello. Il regista utilizza attori non professionisti, come spesso fa, comparse scelte tra le locali popolazioni contadine, la faceva anche altre volte. Molti gli amici del regista che parteciparono alle riprese, tra questi alcuni intellettuali di fama internazionale, oltre al solito Ninetto Davoli, che abbiamo avuto il piacere e l'onore di vedere in molte sue pellicole. Pasolini ritaglia un ruolo anche all'anziana madre Susanna, che nella pellicola per l'appunto interpreta la Madonna anziana. Forse anche questo film vuole mettere in evidenza la sua vita, che è stata molto molto tormentata e per un'epoca che delle cose decisamente brutte, eccetera eccetera. Insomma, un regista che ha sofferto molto. La figura di Cristo fu affidata al catalano Enriquez Iraz, qui spero sia giusto, scusate non conosco lo spagnolo, allora sindacalista 19enne, e venne in Italia per l'appunto per cercare degli appoggi alla lotta contro il regime franchista, e venne doppiato da Enrico Maria Salerno. La location del film è molto interessante, è girato in diverse località italiane, tra cui la Calabria, la Puglia e anche la Basilicata. Non è stato possibile proprio ambientarlo in Palestina, perché la vicenda narrata, la location ha subito notevoli mutamenti nell'arco degli anni. La trama, fedele al Vangelo di Matteo, della vita di Gesù Cristo, all'Annunciazione a Maria, della nascita del Figlio di Dio, al matrimonio con Giuseppe, la fuga in Egitto per sfuggire a Erode e dalla strage degli innocenti. Divenuto adulto, Gesù affronta le prove nel deserto, dopo 40 giorni di tentazione, come abbiamo detto in precedenza, prosegue per la Palestina in compagnia degli apostoli a predicare il suo verbo e compiendo miracoli. Processato da Ponzio Pilato, venne condannato alla crocifissione e alla resurrezione, che conclude la sua vita terrena. Molto interessante, tra la colonna sonora c'è un guru della musica, diciamo così, easy listening, della musica da tema degli anni 60, Luis Enrique Bacalov, spero sia giusto, che propone dei brani di Bach, Mozart e canti gospel. Insomma, questo è il Vangelo secondo Matteo di Pierpaolo Pasolini, che sicuramente avrete occasione di vedere in televisione, ovviamente sempre ad orari assurdi, tipo non so, le 3 di notte, la speranza è l'ultimo a morire, come si dice, la speranza di poter vedere questa bella opera magari alle 8:30 di sera in prima serata su Rai 1. Forse chiedo troppo, anche perché mi pare che i diritti d'autore appartengono a Rete 4, a Mediaset, che ovviamente trasmetterà questo bellissimo film nel periodo di Pasqua alle 3 di notte, già immagino, spero non sia così, ma purtroppo sarà sicuramente così, a differenza di Sky, che possiede anche essa i diritti, mi sembra, per la trasmissione di questo film. Sky sicuramente magari lo propone ad orari più consoni alla bellezza dell'opera del grande maestro Pierpaolo Pasolini. Ci siamo dilungati tanto, però era doveroso, insomma, spiegare a grandi linee questa bella pellicola. Mi raccomando, il Vangelo secondo Matteo di Pierpaolo Pasolini, lo trovate anche giro magari in video, nelle vostre videoteche del cuore, le vostre videoteche preferite. Sto parlando troppo e quindi diamo spazio alla musica e poi purtroppo i saluti finali, però noi poi ci ritroveremo, non vi preoccupate, questo è sempre il Mangia Show. too loud, not too sweet. Between Light and Shadow, bellissimo brano che conclude il Mangia Show di quest'oggi. Avete ascoltato il Mangia Show. Tutte le informazioni su www.andreamangiarotti.com. Alla prossima puntata. Via, ci siamo un pochino dilungati, ci scusiamo, però quando parliamo del grande Pierpaolo Pasolini è giusto, insomma, dedicare un minimo di tempo a spiegare magari una sua grandissima opera. Perché che si è connesso adesso, vi ricordo che abbiamo letto, diciamo così, la biografia del suo film tra i miei preferiti, Il Vangelo secondo Matteo di Pierpaolo Pasolini. E noi siamo arrivati in fondo che per quest'oggi con il Mangia Show. In finale vi ricordo tutte le coordinate per entrare in connessione con noi: www.andreamangiarotti.com, www.andreamangiarotti.com. In questo sito, in questo blog, trovate insomma tutte le coordinate per scrivermi magari un'email, oppure per aggiungermi come amico su Facebook, oppure per leggere le news che scrivo e che pubblico su Twitter, insomma www.andreamangiarotti.com. sembra quasi un ritornello, ma non lo è, è il sito insomma di riferimento del Mangia Show. Io ringrazio tutti gli amici e tutte le amiche che sono rimaste all'ascolto sino a questo momento. Ringrazio anche chi è che magari si è connesso un pochino in ritardo, però non disperate, noi ritorneremo con un'altra nuova ed entusiasmante trasmissione, sempre con il Mangia Show, sempre con Andrea, su questa grande radio. Voi non andate via, perché i programmi, le trasmissioni continuano, e se continuano alla grande, sempre qua su questa meravigliosa stazione radio. Sembra un po' vetusto. Un buon proseguimento di ascolto e ci sentiamo alla prossima. Ciao ciao, bye bye, ciao ciao. Springtime comes again, I'll be with you, my friend. All the places we will see, I know you'll wait for me to the end of days, like yesterday. Friend, to the end of days, just like yesterday, to the end of days, just like yesterday. Show in partnership www.mangiashow.com is renewed in the next episode. Thanks for listening.